America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Well, Mr. President, you've had your moment. We've seen the results. And now, Mr. President, this is our time. Mitt Romney fa di tutto per organizzare la sua campagna nazionale contro Barack Obama, scatenato degli spot televisivi molto aggressivi, ma in un sondaggio pubblicato ieri da Bloomberg risulta che soltanto il 40% degli americani voterebbe per lui contro il 53% che voterebbe invece a vantaggio di Obama. Questo sondaggio è un sondaggio eccentrico, perché è fuori dal coro, non conferma quello che l'opinione pubblica in genere, ma direi tutti gli esperti, i pundits, gli editorialisti, davano ormai per scontato, e cioè che la corsa sarebbe stata molto stretta. Ecco, io personalmente credo che in effetti questa corsa alla fine sarà molto stretta. Secondo me questo sondaggio ha qualche cosa di strano. La verità è che coloro che hanno risposto al sondaggio in realtà hanno dato solo il 40% a Romney, non perché preferissero Obama, ma perché non amano Romney come candidato. Questo conferma un dato che conoscevamo, e cioè che Romney non è molto amato. We decided to keep the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4%, and we continue to anticipate that economic conditions are likely to warrant exceptionally low levels of the federal funds rate at least through late 2014. Altra notizia di ieri, Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, ha deciso di rinnovare l'Operation Twist, cioè quell'intervento sul mercato secondo cui la Federal Reserve, nel momento in cui incassa titoli in scadenza a breve, utilizza i proventi di questo incasso per poi investire i quattrini in titoli a scadenza lunga. L'obiettivo è di tenere al ribasso i tassi decennali e trentennali, favorire il mercato immobiliare e così tenere calmierati i tassi di interesse. Da un punto di vista di intervento monetario, i tassi restano fra lo 0 e lo 0,25%, ma proprio dalla Fed giunge un dato non rassicurante per Obama, perché la Fed ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita. Per il 2012 la forbice di crescita è tra l'1,9 e il 2,4%, prima era più elevato, ha ridotto anche le previsioni di crescita per il 2013 al 2,2 e 2,8%, nel 2014 tra il 3 e il 3,5%, ma il 2014 è troppo lontano, a noi interessano dati che possano influenzare queste elezioni. Bernanke ha chiarito però di essere pronto a intervenire se ce ne sarà bisogno, e io credo che in qualche modo il rinnovo dell'operazione Twist sia un ponte, sia un'operazione ponte. Perché? Perché c'è in America una situazione in divenire, molto incerta, su tre fronti. Intanto si deve capire come si muoverà l'economia americana, soprattutto sul fronte dell'occupazione, che preoccupa più di qualunque cosa Bernanke, e lo ha detto ieri. Si dovrà capire anche nel contesto macro che tipo di evoluzione ci sarà in Europa. Secondo punto, bisognerà capire quali sviluppi politici ci saranno con le elezioni di novembre. E da qui a novembre potrà cambiare tutto, perché se Romney dovesse andare alla Casa Bianca significa conferma dei tagli fiscali contro gli aumenti che vuole Barack Obama, significa un'impostazione macroeconomica completamente diversa, e non ci sono ricette buone per tutte le stagioni. Terzo punto, forse il più importante, tra novembre e dicembre ci sarà la manovra sul disavanzo pubblico americano. Sarà una manovra molto forte, si parla di 5.000 miliardi in 10 anni, un impatto dell'1% circa, forse anche qualcosa di più, sul PIL. E dunque per Bernanke è meglio tenere le proprie munizioni per poi intervenire al momento giusto con il massimo dell'impatto. Io vorrei parlare di questa situazione americana dove la politica e l'economia si intrecciano con Massimo Gaggi, corrispondente del Corriere della Sera, di ritorno con me dal vertice del G20 a Los Cabos. Buongiorno Massimo. Buongiorno Mario. Allora, cominciamo da Romney. Io ho detto, sono convinto che la corsa sarà molto testa a testa. Questo sondaggio mi contraddice. Tu come la pensi? Anch'io non credo affatto a questo tipo di sondaggi. Poi, come hai detto sai benissimo, quelli nazionali significano molto poco. Quello che conta è quello che succederà in 7-8 stati chiave, stati cerniera, quelli nei quali il risultato non è scontato, perché poi avere un sondaggio molto positivo o molto negativo a New York piuttosto che in California non cambia nulla, perché quelli sono stati che sono già di fatto assegnati. credo anch'io che la corsa sarà molto stretta e soprattutto che i fattori che la determineranno devono ancora manifestarsi pienamente. Ecco, Bernanke, che influenza, che incidenza può avere Bernanke su queste elezioni? La banca centrale deve sostenere l'economia, la missione che ha istituzionalmente in questo paese, quindi non avrebbe potuto comportarsi diversamente a mio avviso. Certo, data la virulenza della crisi che è scoppiata nel 2008 col fallimento di Lehman, ha dovuto prendere delle misure sicuramente straordinarie, ma sono anche cose che aveva teorizzato nei lunghi anni in cui aveva studiato la crisi del 29. Aveva detto spesso che in un'emergenza di questo tipo ci si sarebbe dovuto muovere con misure massicce. Sicuramente i repubblicani lo accusano di aiutare in qualche modo Obama sostenendo nel momento in cui sostiene l'economia. Io credo che lo stia facendo solo fino a un certo punto, perché poi ha preso dei provvedimenti che non sono particolarmente incisivi, ma soprattutto ha tirato fuori un'analisi dell'occupazione in cui la Fed praticamente dice che l'altissima disoccupazione attuale, 8,2%, che per l'America è moltissimo, rimarrà sopra l'8% fino a fine anno, cioè quindi fino al voto, e si spinge fino a guardare l'orizzonte fino a fine 2014 e dice che anche a quel punto, quindi a metà del prossimo mandato di Obama, saremo sempre tra il 7, il 5 e l'8%, sta praticamente dicendo che la ricetta di Obama non è molto efficace, sta dando un'arma nelle mani di Romney per attaccare Obama. Ecco, Massimo, un'ultima cosa, direi saltiamo su un argomento completamente diverso. Berlusconi ha dato un'intervista al Wall Street Journal in cui dice che l'austerità sta facendo male e che il governo Monti deve stare attento e che se per caso dovesse esserci un cambiamento, insomma, il suo partito farà benissimo. In Italia ha fatto dichiarazioni diametralmente opposte, ha detto che lui appoggia il governo e l'austerità va bene, anzi chiede misure sul fronte del lavoro. A chi dobbiamo credere? Al Berlusconi che parla col Wall Street Journal o a quello che parla in Italia? Ma sicuramente quando parla a un organo di stampa internazionale straniero, Berlusconi probabilmente pensa di avere un rimbalzo mediatico italiano di tipo diverso. Poi nei momenti di politicamente molto instabili come è quello attuale, Berlusconi si è sempre abituato a sbalzi d'umore e anche a sbalzi di posizione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato che distribuiranno, pensate, 18 singoli inediti nei prossimi 6 mesi, 3 singoli al mese. Cominceranno con Strange Man, Long Progression, il 14 agosto, dei Red Hot Chili Peppers. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!